pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chiederemo questa mattina quanto conti il fattore estetico nella tecnologia che ci circonda, che ci invade, che ci compenetra, che ci rende felici, che ci crea angoscia. Io sono solito partire sempre da un'esperienza personale, vissuta sulla mia carne. Vedo che molte volte l'immagine noi stessi, mediata da uno strumento tecnologico, mediata da un software, mediata da un oggetto che la cambia, che la muta, ci gratifica, ci rende felici. Io ho messo nel mio profilo Facebook da un giorno una foto bellissima che non sembro nemmeno io, ma perché è fatta da Caterina Notte, che è una profonda e sensibile artista, e quindi tecnologicamente ha mutato la mia immagine in qualcosa di esteticamente accettabile. Improvvisamente tutti dicono: ah, che bello, stupendo, meraviglioso. Quindi, in fondo, se ci pensate bene, con questo meccanismo un'infinità di persone ogni giorno sono felici perché rappresentano se stessi a un livello estetico che mai la natura avrebbe loro permesso di ottenere. Ma allo stesso tempo alcune macchine di comune uso con le quali noi conviviamo, che fanno parte ormai delle nostre frequentazioni, come se fossero nostri amici, come se fossero delle propaggini di noi stessi, anzi come se fossero noi stessi, ci affascinano e ci seducono proprio per un loro carattere propriamente estetico. Schermo a tatto ultrasottile di 10 pollici di grandezza, capace di navigare su internet, inviare posta elettronica, vedere film in alta definizione, visionare fotografie, ascoltare musica, leggere i quotidiani online e accedere alla biblioteca digitale della Apple, che conta già 5 dei più grandi editori del mondo. Una batteria di 10 ore di autonomia, di un mese in stand-by. Peso 680 grammi. In due parole, magico e rivoluzionario. 800 24 0024. Mi rendo conto che potrebbe sembrare ostico e lontano le abitudini familiari di molte persone che ci ascoltano. Già prevedo uno stuolo di signori che diranno: ma cosa c'entriamo noi con queste cose, cosa ce ne interessa noi dell'ultimo prodotto della Apple? Ma pensate al vostro ferro da stiro, pensate al vostro aspirapolvere, pensate alla vostra lavapiatti, al vostro folletto, al vostro robot, agli strumenti alle quali siete circondate. Pensate quando sono vecchi, da cosa ve ne accorgete che sono sorpassati? Dal cambio di stile, dal ferro da stiro della vostra collega, della vostra amica, della persona che vi sta accanto. Rendete conto che il vostro invecchiato probabilmente funziona ancora bene, probabilmente ha ancora davanti una lunga vita di percorrenza sulle vostre lenzuola e sulle mutande di vostro marito, ma è cambiato, è invecchiato. Perché? Perché esteticamente non è più all'altezza dei tempi. Quindi c'è un'evoluzione, c'è una sorta di evoluzione anche fisiologica delle macchine. 800 24 0024. Il nuovo Diamond rappresenta un rivoluzionario passo in avanti nell'innovazione e nel design. Si tratta di uno smartphone tri-band GSM, GPRS, Edge, UMTS e HSDPA, dotato della nuovissima interfaccia proprietaria TouchFlow 3D. Semplice ed elegante al tempo stesso, è ben assemblato e realizzato con ottimi materiali. Le dimensioni sono estremamente ridotte e il peso è di soli 110 grammi. Ci rendiamo conto quanto in un comune spot televisivo per un nuovo modello di telefonino esistano delle suggestioni che vanno ben oltre la sua funzionalità, le sue caratteristiche tecniche, quello che voi potreste fare con quel telefonino. Comincia ad esserci una sorta di seduttiva descrizione delle qualità estetiche di questo oggetto, come se fosse una sorta di fidanzata automatica con le quali noi dobbiamo intessere rapporti amorosi, come se fosse uno spasimante che deve starci accanto, che noi osserviamo, amiamo e per cui palpitiamo, per quello che noi vediamo, per quello che trasferisce e trasmette ai nostri sensi, non per quello che poi realmente è la sua funzionalità. Vale per le macchine come vale per gli esseri umani. Design e prestazioni con la massima definizione. Il lettore che unisce l'emozione della tecnologia Blu-ray ad una resa audio che non teme paragoni. Realizzato in vero alluminio, offre un'incredibile comodità di utilizzo grazie ai sofisticati comandi touchscreen per un funzionamento sempre perfetto. La riproduzione Blu-ray Disc garantisce immagini nitidissime in Full HD con risoluzione 1080p a 24 fotogrammi per secondo, regalandoti immagini a qualità cinematografica. I tuoi film preferiti guadagnano vita. Le macchine ci promettono delle visioni sempre più iperrealistiche. La realtà tale quale come è nella nostra visione catottrica, come tale la vediamo attraverso la nostra immaginazione retinica, non è più una realtà che vale la pena di essere goduta. Perché? Perché esistono delle macchine che permettono una tridimensionalità, un affondo nella realtà, nella materia, che l'occhio umano non permette. Quindi le macchine ci regalano una nuova estetica, una nuova visione dell'universo. Tatiana, buongiorno. Buongiorno. Mi ha sorpreso, ha chiamato subito una signora che ho svillaneggiato dicendo che non sarebbero state all'altezza di comprendere il tema, invece lei mi smentisce. Mi fa piacere. Io volevo soltanto dire questo, che da qualche anno mi dibatto fra la forma e la sostanza, fra il vero e l'irreale. Come e... diciamo una fetta consapevole dell'umanità. Esatto, preciso. E quindi via via, diciamo, vai in palestra e vedi donne sempre più rifatte, vai da qualsiasi parte e vedi labbra grosse perché non ci accettiamo più. E così anche eventualmente sul computer, secondo me, è lì che nasce anche l'esigenza di trasformarci in qualcosa che non siamo noi. Ma questo secondo lei è un limite? Secondo me sì, perché secondo me è bello accettarci per come siamo. Ma perché dovremmo accontentarci dei limiti della natura nel momento in cui noi ci produciamo? Certamente, perché io avevo a 18 anni un desiderio incredibile di rifarmi il naso, perché il mio naso non è bello, secondo me. Però è un naso che oggi, che ne ho 48, mi vedo e dico va bene così, nel senso... E con le macchine che c'entra? Noi parliamo di estetica delle macchine. La verità, in Facebook anch'io, anche se non sono brava ad andarci, ci vado ogni tanto così, mi sono fatta mettere da mia figlia dentro e ho scelto anch'io una foto dove sono venuta bene, che non sembro nemmeno io, voglio dire la verità, però è una foto vera, non ho ritoccato né niente. Io la verità mi piace. Guardi, la verità è un concetto talmente ambiguo e talmente affascinante contraddirlo ogni volta, che lei mi sta provando quello che sto dicendo. Lei mi ha detto che ha fatto mettere dentro la sua figlia una foto artefatta in cui non si riconosce lei come si vede ogni giorno guardandosi allo specchio, però questo le dà probabilmente una sottile e frenetica possibilità di interfacciarsi con il mondo che si collega fra esseri umani usando la macchina come protesi delle proprie emozioni. Quindi lei in fondo conferma quello che noi diciamo. L'iPhone si è rinnovato e con la quarta generazione arriva anche una gamma di colori più ampia e una memoria interna da 8 o 16 giga. Il design ritorna allungato, ma stavolta con un profilo arrotondato e uno spessore di poco superiore ai 6 mm per un peso di soli 37 grammi. Malgrado le dimensioni ridotte, la presa è comunque sicura e la grande ghiera centrale, sensibile anche allo sfioramento, gestisce facilmente ogni tipo di comando. Giampiero Lotito, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ci siamo sentiti da poco, ma oggi eri la persona adatta per aiutarmi assieme ad altri amici a sviscerare questo problema. Come vedi, il pubblico prende subito da un lato, probabilmente non è quello esatto. Stanno già telefonando molte persone virando tutto sulla chirurgia estetica. Noi di altro vogliamo parlare. Ricordo che Giampiero Lotito, autore di Emigranti Digitali, Origine e Futuro della Società dell'Informazione dal 3000 al 2025 d.C., edizione Bruno Mondadori. Sta lavorando a un avanzatissimo motore di ricerca, ha insegnato editoria multimediale. Ma mi interessa, Giampiero, per la sua esperienza di annusatore di macchine, soprattutto di uomini che lavorano con le macchine. Parlavamo poco tempo fa di una tua esperienza straordinaria, in età già avanzata, quindi al di fuori di ogni sospetto, nella Silicon Valley. E tu hai visto un'altra dimensione dell'umanità. Sì, sicuramente una capacità di fare network, di aiutare il talento, senza aver bisogno di aspettare che si arrivi al successo, che la dimensione di questo talento venga esplosa o comunque certificata dal successo, come invece accade in Europa. Ecco, questo è il regno da dove nasce e si genera il grande sogno della bellezza tecnologica che abbiamo visto nell'espressione degli ultimi giorni, nelle ultime presentazioni di Steve Jobs, che ci ha un'altra volta affascinato con qualcosa di nuovo che non sappiamo esattamente cosa sia, ma tutti sappiamo che è il pezzo che ci manca per sentirci umani. Sì, è tra parentesi una tecnologia che arriva anche dal passato, perché già negli anni 90 la Apple aveva creato un oggetto che si chiamava Newton, che aveva in nuce tutte le caratteristiche dell'iPad, è una vecchia idea della Apple. Ma la cosa, tornando al discorso dell'estetica che facevi tu prima, credo che sia importante sottolineare che l'estetica, nel caso di queste tecnologie, è un fattore fondamentale per avvicinare l'uomo alla macchina. L'aspetto fashion, il fatto che un oggetto diventi trendy è una conseguenza, ma c'è una cultura dietro che è quella di avvicinare l'uomo alla macchina, o ancora di più di avvicinare la macchina all'uomo, che è nato negli anni Ottanta, e la prima azienda che ha spinto questo in maniera importante è stata la Apple, proprio attraverso le idee di Jobs. E come si distingue quello che è semplicemente un espediente di marketing pubblicitario? Molte macchine sono costruite con delle forme suggestive, con delle seducenti caratteristiche, ma in realtà poi non mantengono quella che è la loro promessa di essere delle parti indispensabili poi della nostra umanità. Ma guarda, io faccio un esempio che torna indietro di qualche decennio. Ricorderai tu, come ricorderanno tutti, le auto giapponesi degli anni 70, che erano solidissime, funzionanti, non si rompevano, ma erano dal punto di vista estetico terribili, bruttissime. La capacità di capire di quell'industria, che doveva badare anche al modo, alla piacevolezza degli oggetti, ha fatto sì che negli anni 80 e 90 diventassero dei giganti. Cioè il principio della tecnologia che si avvicina all'uomo anche attraverso la gradevolezza è ormai proprio di tutti gli ambiti e tutti i settori. Nella tecnologia digitale, nei telefonini, nei computer, era ritenuto un fattore secondario. Ovviamente quando diventa il primo elemento e si trascura il fatto che poi questi oggetti devono funzionare, devono servirci, diventa una moda destinata a cadere. Quando invece si riesce a coniugare la funzionalità, l'utilità con la piacevolezza e la bellezza, diventano oggetti che ci cambiano la vita. Sentiamo Roberto Siagri. Buongiorno Siagri. Buongiorno. Roberto Siagri è il protagonista di una Silicon Valley italiana, Silicon Valley friulana, è fondatore, presidente e amministratore delegato di Aerotech, immagina macchine, costruisce macchine, inventa macchine, e il suo sogno ultimo è che le macchine e la nostra carne diventino un tutt'uno. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, assolutamente no, magari un sogno che ci metteremo ancora un po' per realizzarlo, ma l'interazione tra umani e computer è ormai, lo si vede, sta diventando una cosa ineludibile. Anche citavate l'iPad è una forma di avvicinamento, come diceva lo Tito, del computer all'uomo, che tra l'altro è una cosa che nasce appunto nella Silicon Valley già a metà degli anni 80, inizio degli anni 90, e che poi vede anche in Donald Norman, che scrive Il computer invisibile, questa rivoluzione verso una tecnologia migliore, una tecnologia che scompare e che diventa quasi trasparente. Il grande, secondo me, punto in avanti dell'iPad non è appunto nella tecnologia, che bene o male era già disponibile, è nei contenuti e nella usabilità, nell'interfaccia che si semplifica enormemente e che non richiede più neanche una tastiera, richiede solo lo sfioramento di passaggio di una mano su una superficie sensibile, per cui stiamo dando alle macchine anche una sensibilità che negli anni 80 non avevano. Siamo alla ricerca un po' di quello che chiamavano i poeti il punto zero della scrittura. La macchina che comincia a perdere la sua alterità nei confronti dell'essere umano e diventa qualcosa che fa parte della propria umanità. Questo è un tema che sapete a me molto caro. Quanto la macchina ci aiuta e ci ricorda che noi siamo umani. Vorrei chiedere agli ascoltatori quanto hanno ceduto al fascino delle macchine, colti magari prima da un senso estetico, la passione per la tecnologia. Nei grandi ipermercati i luoghi più frequentati sono quelli dove sta la tecnologia consumer. Siano persone affascinate di fronte a macchine delle quali non intuiscono nemmeno una necessità reale, però sembra quasi che godano nel contatto diretto. 800 24 00 24. Marta Canina, buongiorno. Buongiorno. Lei si occupa di costruire parti del corpo umano, che in realtà sono macchine, il più belle possibile. Ricercatrice al Biodesign Lab del Politecnico di Milano, è autrice di Indossami, il design e la tecnologia indossabili, edizione Franco Angeli. Lei ricostruisce parti di uomo? Sì, sì, in realtà lo studio è parte proprio dal concetto di applicare il design ad oggetti che vanno a stretto contatto con il corpo, quindi che sono vere e proprie protesi. Noi possiamo considerare qualsiasi oggetto delle protesi, dal, come diceva Le Corbusier, dalla penna che diventa un'estensione del braccio, alla bicicletta che è l'estensione delle nostre gambe. E quindi nel caso di oggetti che possono salvare la vita o che ne migliorano la qualità, l'aspetto di design diventa l'aspetto estetico, quindi diventa estremamente importante per l'accettazione da parte della persona. Ma oggi non c'è un tentativo di fuggire da questa sorta di rigore naturalistico? Le protesi umane, quelle che vediamo più efficaci, più efficienti, quelle che trasformano gli uomini in superuomini, viene in mente le gambe di Pistorius, ma quelle di tanti altri. C'è una famosissima modella americana che ha fatto anche una copertina su Wired, che è bellissima, dal ginocchio in giù a due balestre d'acciaio. Non c'è più bisogno di costruire gambe uguali a quelle che la natura ha orbato nell'essere umano? No, assolutamente. Cioè, fino a poco tempo fa, e soprattutto in Italia, c'è stata la tendenza di mascherare queste protesi perché venivano percepite proprio come estranee al corpo, come qualcosa di non naturale. Adesso questo confine tra naturale e artificiale diciamo è molto più labile, e ad esempio sulle ultime protesi, proprio perché il design è entrato e questo aspetto estetico è entrato fortemente a caratterizzare questi arti artificiali, non c'è più bisogno, non c'è più la voglia di nasconderlo. Quindi voi state riprogettando la struttura umana praticamente, cominciando e partendo dalle persone a cui manca qualche pezzo, poi riprogettate un uomo più efficace, più efficiente. Sì, concettualmente anche per, non solo per sostituire delle parti del corpo, ma andare ad amplificare degli aspetti funzionali del corpo. Quello che stiamo facendo adesso è non solo nell'ambito medico, ma soprattutto nel andare a risolvere problemi sociali grossi, stimolando un design proattivo per la qualità di vita. Roberto Siagri, non è una grande occasione questa? Tu che progetti macchine che non sempre più avvicinarsi all'uomo, e magari ci parli di alcune delle sperimentazioni che state facendo. Ho visto sensori infilati dentro delle magliette, piccoli computer, piccolissimi, che sembrano quasi invisibili. È una grande occasione questa in cui si è abbandonato il tabù del corpo ricostruito perfettamente identico a quello che è il progetto umano per l'eccellenza, per infilare in questo corpo qualcosa che magari non si era mai pensato prima? Credo di sì, credo che se noi valutiamo o analizziamo la vita media delle persone, vediamo che l'abbiamo amplificata e aumentata, allungata grazie alle tecnologie. Senza le tecnologie non vivremmo così bene come viviamo oggi. Ci si tratta solo di capire qual è il punto di contatto e il punto di interazione migliore. Sicuramente dalle protesi fisiche alle protesi elettroniche, gli scienziati e in qualche maniera tutti i ricercatori stanno cercando di migliorare quello che è il nostro corpo, e sta di fatto che poi è anche nato questo movimento del transumanesimo, che è un movimento culturale anche filosofico, che proprio cerca di superare quella che è l'umano come lo conosciamo. E d'altra parte, 2 milioni di anni fa non eravamo quelli che siamo oggi, e tra 2 milioni di anni probabilmente non ci riconosceremo più guardandoci indietro, e tutto questo lo possiamo in qualche maniera accelerare, senza aspettare 2 milioni di anni, lo possiamo accelerare grazie alle tecnologie, che possono in qualche maniera venirci incontro, semplificarci la vita. E ora, ecco, sì, grazie a sensori sempre più piccoli, grazie a cerotti intelligenti che possono in qualche maniera dialogare direttamente con i sistemi informatici e trasmettere al medico le informazioni fisiologiche, grazie a interfacce verso i computer sempre più semplici, che ci dimenticano, che quelli, ci fanno dimenticare che quegli oggetti sono dei computer, si va in questo tipo di direzione. Ecco, questa è la parola fondamentale. Io lascio un istante la linea alle informazioni della borsa. Vorrei invitarvi di telefonare all'800240024 proprio sul termine che ha detto Siagri, dimenticarsi la tecnologia. Quali sono le tecnologie che hanno un fascino così forte, sono così seducenti, sono così avvolgenti, di cui vi dimenticate? Quanto ogni giorno fate uso di oggetti tecnologici senza più rendervene conto? Io in questo momento ne ho uno davanti alla bocca, ne ho uno attorno ai padiglioni auricolari degli occhiali spessissimi, quindi sono circondato da tecnologie che mi permettono di vedere il mondo, ma non mi rendo più conto che non appartengono al mio corpo, perché appartengono fondamentalmente e radicalmente anche alla mia carne. Melog 2.0. Cavolo, ma sembri una persona vera. Sono un organismo cibernetico, tessuto vivente su endoscheletro metallico. Staccami, John. Ok. Non sei qui per uccidermi. Questo l'ho capito da solo. Com'è la storia? La mia missione è proteggerti. Ah sì? E chi ti ha mandato? Tu stesso. 35 anni da ora tu mi hai riprogrammato per essere il tuo protettore in questo periodo. Oh, sempre più figo. Sandra, buongiorno. Buongiorno. Lei sogna che un giorno il suo iPhone diventi come Terminator dell'ultima generazione, le parli e dica: sarò il tuo protettore? Ma no, questo no, non credo di protezione, però non mi meraviglierei, adesso non sono una scienziata del tema, però come utilizzatrice non mi meraviglierei se l'iPhone fosse a portata proprio all'interno della mia mano, nel mio braccio, senza avere un apparecchio esterno, perché è talmente utile, così come tantissime altre cose. Noi parliamo di questi oggetti perché ormai sono brand così diffusi e così di uso comune che hanno una loro individualità, e chiaramente non è che stiamo qui a pubblicizzare l'uno o l'altro prodotto, però noi stiamo parlando di qualcosa che è entrato nell'immaginario, ormai lo smaneggio dell'iPhone dentro la metropolitana per ostentare quello che non rappresenta più il semplice telefono portatile è un'operazione molto consueta da vedere. Lei accarezza spesso in pubblico il suo iPhone e ne è lusingata degli sguardi di invidia? Ma no, io le dirò, forse perché sono proprio, io apprezzo proprio l'utilità del mezzo, nel senso che secondo me è rivoluzionario proprio perché mi offre tantissime cose in un unico apparecchio. Ma il fatto, cioè, che sia anche bello, quanto conta? Io, come lo direi a una donna, conta, stai con, no, quell'uomo, conta, ma perché conta, è un bell'uomo? Conta, no, conta tantissimo, perché comunque il fatto che cambi spesso la cover dell'iPhone, cioè questo la dice lunga, nel senso che comunque apprezzo moltissimo anche la sua linea, il suo, cioè mio marito ha un altro apparecchio simile che fa più o meno le stesse cose, forse anche qualcosa in più, ma non è così bello come il mio, insomma, è chiaro. Quindi lei cambia il vestitino come fosse una bambola. È chiaro, ogni tanto sì, bisogna, lo faccio scegliere dai miei figli, che sono anche avanti, anche loro della... E anche il giocattolo dei suoi figli, immagino. Certo, cioè, consideri che mia figlia è di 2 anni e mezzo e l'altro, va bene, ha 6 anni e mezzo, un po' di più, ma quella piccola ormai ha la sua lista dei preferiti in YouTube dall'iPhone, perché va ad ascoltarsi la sua ninna Nanna, lo spezzone di Pippi Calzelunghe. No, quanti anni ha sua figlia? Forse ho capito due male. 2 anni e mezzo. No, non è un genio, è semplicemente no, è una nativa digitale. Ecco, bravissimo, proprio così. Ma così come secondo me... Pensi che noi abbiamo una lacrimuccia e nostalgia per la giostrina di plastica della Chicco, quella che girava con le apine. Sua ma figlia, no, ce l'aveva quando, quando insomma, è nata, l'aveva anche lei sulla culla, ma dopodiché si è accorta che esiste l'iPhone. Non è la prima persona, l'iPhone. Un'amica mia mi parlava giorni fa dei figli che lei, quando torna a casa, prendono in consegna il suo iPhone e ci giocano a farsi le interviste reciproche, e quindi vedo che è un uso molto diffuso, anzi mi piacerebbe. 800240024, mi piace questo passaggio del testimone di tecnologia avanzata tra madri e figli. Giampiero Lotito. Giampiero Lotito? Sì, ci sono. No, tu che hai studiato gli emigranti digitali, che ne dici di questa transumanza e tecnologia? La madre lo usa per lavoro, per necessità estetico, tecnologiche e funzionali durante la giornata, la sera si trasforma, passa in mano ai figli, penso è molto diffuso, e l'iPhone diventa il giocattolo preferito. Beh, questa cosa ci stupisce, ovviamente, perché si tratta di tecnologie che noi vediamo come avanzate. Però se pensiamo ai bambini che avevano in mano il telecomando del videoregistratore 15 anni fa e ci stupivano perché riuscivano a manovrare un videoregistratore molto più agevolmente di una persona anziana. E se andiamo indietro, questo fenomeno si ripete con il telefono rispetto ai nostri nonni e via discorrendo. C'è un motivo. La tecnologia, quando viene assimilata, quando io sono nato dopo una tecnologia, la assimilo e diventa inconsapevole, diventa qualcosa che io uso in modo naturale. Quindi stupisce che i bambini adesso siano in grado di, riconoscendo le icone, di navigare su internet o fare cose del genere anche già molto piccole. Poi ho notato però una cosa, è un fatto naturale. I luoghi in cui si vende lussure per gli occhi e per i sensi, sia per grandi che per piccoli, sono sempre più omologati in un'unica postazione. Laddove si va a comprare telefonini, console, apparecchi consumer per videoriprendere, televisori, l'età va dai 2, 3, 4, 5 ai 70 anni e gli oggetti sono gli stessi. Un figlio un mese fa ha quasi sgozzato il padre perché litigavano sulla console della PlayStation e quindi si contendevano lo stesso oggetto. Non è mai successo. La nostra generazione di arteriosclerotici digitali gioca con i figli, ma per fare un favore ai figli, per il piacere di stare con i figli, ma non sono le stesse cose con cui giocavamo noi da grandi o cui giochiamo noi grandi. Qui è lo stesso giocattolo, ha una funzione così forte da un punto di vista di attrattiva estetica e direi sensuale, e che coinvolge tutta la famiglia, la madre come il figlio, il padre come il figlio. Sorriderai sicuramente nel ricordare quando arrivava in casa qualche decennio fa un'autopista, che era il regalo che veniva fatto ai bambini per farsi giocare. Ma era un giocattolo, poi non era lo strumento di lavoro. L'iPhone, in questo caso, è il più importante la più importante interfaccia professionale del padre o della madre. Ma perché sono oggetti che riescono a soddisfare esigenze per tutti, soprattutto sono utili. C'è una cosa che a me ha sempre stupito: il videotelefono fu presentato da AT&T nel 1962. Ma non ha mai sfondato? Ha quasi 50 anni, però allora era inutile perché c'era difficoltà ad avere una linea telefonica in casa, figuriamoci ad avere il videotelefono. Ma poi il telefono in effetti è un oggetto col quale noi amiamo parlare proprio perché ci maschera un po', per cui il fatto di vedersi a telefono non è sempre cosa gradita. Quindi una tecnologia ha anche bisogno di essere utile. L'esempio che hai fatto tu ci dice proprio che sono oggetti che sono utili in tutta la vita, da quando siamo bambini fino a quando siamo adulti e poi anziani. Marita Canina, ricordo, ricercatrice e progettatrice di parti del corpo umano. Questa sensualità dell'oggetto che fa sì che diventi appetibile per tutte le generazioni fa parte degli imperativi che vi ponete quando riprogettate parti del corpo umano? Sì, infatti mi volevo ricollegare un attimo a questo discorso proprio perché è cambiato il tipo di progettazione. Il design adesso, nel passato, negli anni 80, era... canoni su cui si progettava erano dettati dal marketing, negli anni 90 dalla tecnologia, attualmente invece è tutto centrato attorno all'uomo e ai bisogni dell'uomo, quindi il progettista parte soprattutto dal capire le esigenze e i requisiti che devono avere questi oggetti per essere a contatto ed essere usati in modo gradevole dalle persone. E si chiama proprio questo approccio Human Centered Design. Sentiamo un attimo, scusi un attimo, Marcello, buongiorno. Eccomi, mi interessa padre, quello che dice lei. Lei ha un oggetto, un meccanismo nel suo corpo indispensabile. Di cui mi sono ricordato ascoltando lei. Indispensabile a farla vivere, che è un pacemaker. Accidenti. Però non sa come è fatto. No, lo so come è fatto. Grosso modo, voglio dire, ha una forma, diciamo, sono 4 centimetri per 5,5-6. È un rettangolino, credo che sia. Senza quello lei muore, però non si accorge che ce l'ha. No, assolutamente. Dico, ma io ho il pacemaker e voglio dire, sono 3 anni che ce l'ho. Ma me ne ricordo solamente ogni volta che entro in banca. Quindi lei vorrebbe dire che il corpo umano. Quando prendo l'aereo, che certo, deve stare attento. Bypasso il. Quindi il corpo umano accetta di avere in sé componenti tecnologici, non c'è che c'è un rifiuto. Accidenti, ma poi voglio dire, quello che è stupefacente è che l'ultimo controllo, si passa col pacemaker, si passa un controllo l'anno, e praticamente viene letto con un lettore che vi è passato sopra, prima si doveva togliere tutto, si doveva denudare, adesso no, lo passo direttamente sull'abbigliamento. E la cosa divertente è stata che quest'anno ha dato la vita residua, e allora è stato una specie di un equivoco, perché io ha detto, dice 9 anni, dico Dio, mi rimangono 9 anni, no, dice la vita residua del Tesmeche, prima che si debba intervenire e cambiare. Ma quello vecchio se lo terrà lei poi, che è stato tanto tempo dentro, infilato dentro di lei? Quando lo cambierà, gli daranno uno nuovo, quello no, vecchio? No, io non cambierò il pacemaker, no, sarebbe complicato, perché il pacemaker, contrariamente a quello che uno pensa, c'è un impianto, voglio dire, ci deve stare, c'è un catetere elettrico che va proprio dentro al cuore, no, intorno al cuore, ma dentro, ed è quello proprio che praticamente lo fa, in caso di necessità, lo fa battere. E no, no, si cambia praticamente, si un piccolo interventino in anestesia locale e si cambia la pila, voglio dire. Ah, deve cambiare semplicemente le pile lei? Semplicemente la pila, sì. E non si sente un Terminator consapevole? Ma sì, diciamo sì, se qualcuno mi ci fa pensare mi sento un Terminator. Le voglio dire che la cosa divertente fu che io l'ho messo, praticamente credo 2 giorni dopo che l'aveva messo, vabbè lo possiamo dire, sì, no? Nostro Presidente del Consiglio. Vabbè. E gli chiesi al chirurgo, dico, ma senta un po', dico, ma è qualcosa, dico, è come quello. Dice, ma faceva meglio a venire qui, da, lo sta mettendo lei, e mi ha detto anche la marca. Adesso non la dica, non vogliamo fare, siamo partiti a parlare degli iPhone. La caratteristica è doppia camera. Vabbè, lei ha un pacemaker a doppia camera. No, quello che è più stupefacente di tutto, quello che bisogna pensare, è che tiene nota di tutti i nostri battiti, perché l'esame in che cosa consiste? Che viene fuori. Ma adesso lei si sta attizzando in maniera invereconda del suo pacemaker. Però mi piace perché. Non mi piace, no, mi piace, vuol dire che la prova concreta è quello che dico: che noi possiamo avere con la tecnologia un rapporto così viscerale e quasi sensuale che siamo pronti ad accoglierla dentro di noi. È il momento che l'umanità comincia ad espandersi in maniera tecnologica. È una fase dell'evoluzione che osserviamo e viviamo in maniera cosciente, e forse è la prima volta nella nostra storia. Melog 2.0 TV, PC, Blu-ray, DVD, audio system, monitor touchscreen, tutto in uno. Una vera e propria stazione tecnologica in grado di soddisfare qualsiasi esigenza multimediale, sia nel lavoro che nel tempo libero. Caratterizzato da un design lucido e accattivante, un vero e proprio elemento d'arredo, un gioiello che ben si adatta ad impreziosire qualsiasi tipo di ambiente domestico o lavorativo. Da touch è dotato di schermo touchscreen da 24 pollici full HD. Risoluzione 80024 0024, stiamo parlando di un rapporto con la tecnologia che parte da una fascinazione tipo estetico, ma diventa molto di più. Roberto Siagri, fondatore e presidente AD di Eurotech, la Silicon Valley in provincia di Udine, hai sentito l'ascoltatore appassionato dal suo pacemaker? Cosa ti fa pensare rispetto alle tecnologie che stai studiando, progettando e anche costruendo? Mi fa pensare che la direzione è quella giusta, mi fa pensare che una volta che noi poi ci impadroniamo di questa tecnologia, che la assimiliamo, non vogliamo più farne a meno. Ma guarda, lo si può vedere dai tool, dei primi tool dei primitivi, da quando hanno cominciato a scolpire la pietra per farsi le prime armi, che erano fatte diventare da oggetti contundenti a oggetti anche ergonomici, e poi se pensiamo all'evoluzione delle spade fino a qualche centinaio di anni fa, eravamo tutti quanti con la spada, e poi mi fa venire in mente appunto la spada più bella, la Tori Hanzo, la spada di fatta in Kill Bill. Ah, colpito al cuore, hai nominato Kill Bill. È una delle più profonde passioni della mia vita, Tarantino, quindi so esattamente cosa c'è dietro quella spada. Ma per dire come poi la spada diventa da un oggetto qualsiasi un oggetto speciale, come la tecnologia prima da un oggetto estraneo all'uomo o se è solo relegato a pochi professionisti o specialisti, diventa un oggetto che entra nella vita, e a questo punto bisogna dargli tutti quei connotati di interazione con l'umano. E si diceva prima bene di tutto lo studio che adesso è verso lo human centric interface, cioè con un'interfaccia sempre più vicina all'umano, sempre più che tenga conto dei bisogni delle persone, in maniera tale da far scomparire l'aspetto tecnologico e farne emergere l'aspetto di utilità. Ecco Siagri, il pensiero neoluddista, cioè quello che ha in forte disprezzo la civiltà delle macchine, la civilizzazione delle macchine, dice: ma le macchine omologano, sono tutte uguali. Ma io trovo, questa è una mia personalissima visione, vediamo se puoi confermarmela o smentirmela, che in realtà la singolarità, l'originalità, il vero senso profondo della propria individualità nasce dal rapporto di quell'umano con quella macchina. Sì, le macchine sono tutte uguali, ma la macchina uguale, prodotta in serie naturalmente, interfacciata con me stesso, crea un qualcosa che è unico, è assolutamente diverso da quello che provocherebbe nel rapporto con un'altra persona. Assolutamente, ma facciamo un esempio più semplice. Tutti andiamo a scuola, ci insegnano l'alfabeto nella stessa maniera, ci insegnano a scrivere e a leggere nella stessa maniera, poi non tutti diventano dei scrittori, non tutti diventano dei poeti, per cui abbiamo imparato, ci hanno dato la tecnologia della scrittura e della lettura, però ognuno di noi poi la modella e la fa diventare una propria quintessenza, un qualche cosa di unico, e sicuramente questo vale anche nel rapporto tra umano e computer. D'altra parte il computer non è altro che un'evoluzione, la tecnologia di computer è un'evoluzione della tecnologia della lettura, della scrittura, sono assimilabili in qualche maniera. Questa mattina su Repubblica c'è una pagina strappacuore, strappalacrime: povera geografia superata dal GPS e sfrattata da scuola. Qualcuno si comincia a chiedere, ma serviranno tante ore di geografia quando ormai con dei localizzatori, con dei GPS andiamo ovunque? È una domanda che in questo momento non ha soluzioni, però è importante si ponga il problema di quanto la tecnologia via via sta riempendo e colmando lacune della nostra memoria biologica, fornendoci dei supporti a vivere, a perimetrare, a conoscere la nostra realtà. Sentiamo Luca, che sicuramente non è d'accordo con quello che dico. Buongiorno Nicoletti. Niente, sono spaventato da quello che ha detto quella donna. Sì, lei dice dare l'iPhone in mano a un bambino è aberrante. È raccapricciante, non è aberrante. È peggio. Raccapricciante. È una cosa incredibile, io non lo so, ma anche questa cosa si parlava prima del design con al centro l'uomo, no? Ma scusi, se lei si stacca una gamba che gliela porta via una rotaia, qualcuno dovrà rifargliela. La nostra marita canina cerca di rifargliela più bella possibile, più efficiente possibile. Ma bisogna... A meno che non vuole girare come gamba di legno, non so, ognuno poi ha le sue... Ma a parte che esteticamente il legno lo preferisco comunque, però quando si parla di design, di uomo al centro, ma quelli sono bisogni indotti. Io conosco gente che fa tutti i giorni 50 chilometri da Bergamo a Milano e ha il GPS acceso e fa sempre quella strada. E fa bene averlo acceso, perché segna anche, segna gli autovelox e ci dà anche quando superiamo i limiti di velocità. Fa benissimo averlo acceso. Ah, ma quindi io non sono più consapevole, cioè c'è un tachimetro davanti alla mia faccia. Ma se a me una voce mi ricorda stai superando il limite di velocità, e se qualcuno mi telefona, cioè c'è il viva voce incorporato nel GPS, e mi piace poi comunque vedere le strade laterali, collaterali e tutto, perché vuole negarmi questa estensione della mia percezione del territorio? Ma non è un'estensione questa, secondo me. È uno spegnimento del cervello, della sua logica. Ma il cervello è attivissimo, guardi, penso... Ma guardi, lei si immagina Wittgenstein che dà a suo figlio, a parte che non l'aveva, che dà a suo figlio un iPhone e gli dice senti la musichetta, ma lei pensa che l'avrebbe fatto? Ma se fosse vissuto in quest'epoca l'avrebbe fatto sicuramente, immagino. Ah, lei pensa di sì, io penso di no invece. Ma lei pensa che non so, Thomas Bernard avrebbe dato un iPhone a suo figlio, avrebbe detto ascolta questa musichetta. Ma lei fa delle ucronie, lei colloca oggetti a noi contemporanei in epoche in cui ancora non esistevano, deve trovare delle similitudini calzanti, se vuole dare questo esempio. Io penso che i genitori che danno ai figli degli strumenti di lettura della loro contemporaneità e abituano i figli, ma tanto anche se non lo facessero si abituerebbero da soli, perché la tecnologia ci contamina anche se noi ne siamo spaventati, anche se si pongono dei limiti familiari, delle pudicizie ambientali ad ogni tecnologia, comunque arriva, trapela, quindi non c'è nulla da fare. Oggi vedo che la grande preoccupazione e trovare dei software che blocchino i siti internet pericolosi per i ragazzi. Ecco, finché sarà questo l'unico atteggiamento nei confronti della tecnologia, il mondo sarà sempre diviso a metà tra persone che vivono la propria epoca e persone che si radicano come quelle comunità religiose in un mondo utopistico che non esiste più. Antonio. Pronto? Sì. Ciao Gianluca. Premetto che sono perfettamente d'accordo con te. Questo preoccupa. No, non ti devi preoccupare. No, ma c'è una cosa che mi preoccupa, è il fatto che l'uomo sta snaturando un po' il mondo, ma nello stesso tempo... Questo è un altro problema, adesso in questo momento mi si consenta, ce ne sbatte, stiamo parlando di un'altra cosa, è vero, sì, è sempre stato così, però snaturare è il termine su cui vorrei soffermarmi. Che vuol dire snaturare? andare contro natura, sotto certi versi. Ma l'uomo ama la macchina, ha creato la macchina per avere dei mezzi per poter migliorare se stesso e gli altri, e lo trovo giusto. Però mi è piaciuto il film che ho visto proprio l'altro giorno di Cameron, Avatar. Che a me non è piaciuto per nulla, invece. È ipertecnologico. Ma no. Però il messaggio che ho letto. Pacchianamente kitsch. Comunque va bene, ognuno. Va bene. No, ma mi è piaciuto per il messaggio. Poi kitsch. Sì, il messaggio. È kitsch proprio il messaggio. Kitsch il messaggio. Sì, secondo me. Ma questa natura, hai trovato kitsch il messaggio rispetto alla natura? Sì, perché è messaggio logore, antico, vecchio, populista. Che gli uomini buoni stanno a contatto natura e la tecnologia è soltanto arma di guerra e di distruzione. Ma su quello potremmo molto dilungarci. Mi scuso con i miei ospiti che mi sono preso dello spazio prezioso ai loro pareri, ma li richiamerò. Per questo è un tema che vedo che con veemenza il pubblico aggredisce e quindi mi invita a nozze. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.